fuck is this? No doubt. I guarantee you it'll be your very last time breathing. Brothers can't believe how the skills have died. Who the fuck is this? No doubt. I guarantee you it'll be your very last time breathing. Brothers can't believe how the skills have died. Yeah. Lo schitraffici, affari sporchi per pochi specifici. Occhiali scuri con la scorta. Uno per la sua fetta di torta. Unisciti alla flotta. Chi ha provato a mollare la cosca già sul fondo di una fogna. Tutti sanno chi sono, che fa. Cercano il coraggio di parlare, ma assaggiano. Vendette trasversali a spese dei loro cari. Mettiti nei nostri affari, ma sta attento ai familiari. Se non paghi denari, casi rari. Di gente graziata per caso. Ad armi pari l'ho steso e abolito. Ringrazia Dio che ti ho tagliato solo un dito e capito fallito. Amico, ti conviene scomparire, questo è il mio invito. Stesso posto, stessa ora. E se la roba non è buona, il mio scagnozzo te ne suona. Ti taglia la gola, sei una persona sola. Gio Moretti e Silvio Santi pronti ad ammazzare ancora. So come va con un problema tra signori. Si tratta di soldi ma non dico mai milioni. Tra le occasioni, allusioni personali. Credo a me stesso e alle palle familiari. Con i legami non ho problemi. Ho seppellito tuo padre e la troia che scopavi. Niente più eredi, prendi le tue fedi. Mettili al dito che poi passo col macete. Ti do un consiglio senza ridere. Parla meno se vuoi vivere. Vivi con stile senza eccedere. Mangia polvere, cenere alla cenere. Dormi tranquillo che è già pronta la tua lapide. Io volo all'estero verso il caldo Cairo. Ci vediamo alla Malpensa che parte l'aereo. Poi sarò libero di fare il mio futuro. Di sicuro sarà tanto lungo e duraturo. Ora il gioco è complicato. Giro le aste perché l'arte vende bene a buon mercato. Accusato di corruzione, braccato dalla DIA, viaggio sotto falso nome. Silvio Santi, tra tanti cazzi che conosci solo Santi. Può darti soldi, può darti beni che tu sogni. Spacciare falsi insospettabili, trattare con politici, rubare soldi ai poveri d'emergency. Muovo le leve dal vertice. Ho delle vite destinate a finire col cenno del mio indice. Dei camion dell'unice, armi automatiche trasportate e vendute fino all'arrivo nel sud delle Americhe. Cimici nascosti in Vaticano per sua santità. 20 anni fa avevo come portavoce Alia Cha. Vorresti stare al mio posto? Parto dal presupposto che vivrò nascosto dentro un centro operativo poco esposto. Tipo Losco conosco tutti i traffici illegali dal Trentino alla Sicilia. BCK il mio clan e tutto il resto è poltiglia. Who the fuck is this? No doubt. I guarantee you it'll be your very last time breathing. Brothers can't believe how the skills have died. Who the fuck is this? No doubt. I guarantee you it'll be your very last time breathing.